si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Eccoci qua, ben ritrovati cari ascoltatori, mezzogiorno e 7 minuti, l'appuntamento è il sabato e la domenica con l'altra cronaca su Radio 24, quella che cerca di riportarvi un po' il sorriso dopo una settimana di cattive notizie, quelle classiche della cronaca e dell'economia e della crisi. È stata la settimana in cui il governo ha varato un pacchetto occupazione, parleremo un po' anche di lavoro, cercando di trovare degli spiragli positivi, se possibile. E vi ricordo anche subito che questa è l'ultima puntata dove è possibile intervenire in diretta, perché poi da settimana prossima ci saranno delle puntate registrate con un po' di meglio di, inizia il palinsesto estivo di Radio 24, il numero verde per intervenire 800 24 00 24, subito anche gli altri contatti, c'è Benedetta su Facebook e su Twitter, già da adesso si può fare, @radio24.it e poi su Twitter si può fare 24. 349-238-6666 per i vostri sms, vabbè, abbiamo detto anche questa. Iniziamo con qualche notizia della settimana. Cari amici, siamo Elio e Storie Tese. Ciao. E siamo d'accordo con il maestro Mehta. Non lasciamo morire il maggio musicale fiorentino. No, no, no, no, no, no e no. E ve lo dice gente di un certo livello. Oh. Con gli attributi, insomma. Insomma, ci sono un po' di aggiornamenti sulla vicenda del maggio e il maggio fiorentino. Questo è l'appello di ieri, l'abbiamo già fatto sentire diverse volte. Gli aggiornamenti sono questi: o si va verso la liquidazione e la rinascita, quindi in una nuova forma della fondazione che ha sostenuto sin qua questa importante istituzione culturale italiana, diciamo così scherzando, ma è giusto, condividiamo l'appello di Elio per salvare questa risorsa della cultura italiana riconosciuta anche all'estero. La notizia è che c'è stato un incontro ieri al Ministero dei Beni Culturali con i sindacati, i rappresentanti delle istituzioni della Toscana, eccetera. Insomma, anche il sindacato dice che farà la sua parte per risparmiare almeno 3 milioni di euro l'anno di spese, perché se no il maggio chiude. Noi vorremmo proprio che oggi foste voi a chiamare all'800 24 00 24, amici che lavorate nella cultura, nei teatri, nelle orchestre, anche nelle librerie, voi librai, perché abbiamo una bella storia, una serie di micro iniziative nel campo delle librerie molto belle, positive, che vogliamo portarvi ad esempio. 800 24 00 24, amici librai, oggi è il vostro giorno per chiamare. E queste sono le altre notizie della settimana. A Dalmine, un paesino, una città insomma di 30.000 abitanti in provincia di Bergamo, gli amministratori del comune si riducono lo stipendio del 20%, daglie e daglie, lo stanno capendo un po' tutte le parti, che insomma i costi della politica vanno ridotti. Altra notizia, ci piacerebbe che le città fossero sempre aperte a tutte le ore. A Bari parte la sperimentazione, i mercati rionali, quelli dove si compra la frutta, la verdura, aperti fino alle 21 di sera. Partirà lo spazio di Corso Mazzini a Bari, il mercato rionale di Corso Mazzini, e poi via via anche gli altri. La nostra ricetta anticrisi, dicono gli operatori, che a fine giornata spesso hanno metà dei prodotti invenduti, quindi insomma è un modo anche questo per reagire alla crisi, ma è un modo anche per vedere una visione della città sempre aperta tutte le ore. Quest'ultima notizia invece viene da Bologna. Uno sportello per i giovani a Bologna e Forlì, Mobilitas, lo sportello regionale che apre le porte d'Europa, indirizzato a ragazzi residenti in Emilia che sognano di fare un'esperienza di studio, lavoro, volontariato fuori dai confini italiani. Due sedi, Bologna e Forlì, un'iniziativa che nasce in collaborazione tra la regione, i comuni e le università di Forlì e Bologna. Bravi, complimenti. C'è chi sta pensando invece di dare suggerimenti per trovare lavoro durante l'ora dell'aperitivo. Di anarchia e di libertà, tra un bicchier di coca ed un caffè, tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. E Eravamo tre amici al bar. E allora l'iniziativa si chiama World Coffee, è un'iniziativa recente, nuova, originale in Italia, dare suggerimenti per il lavoro, insomma favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta, però al bar, in un bar, infatti già dal nome si capisce World Coffee, e questo è il senso dell'iniziativa. Detta così sembra un po' una boiata, invece probabilmente non lo è. Salutiamo Luigi Ronda, responsabile nazionale del progetto World Coffee, buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito naturalmente. Allora, siete già presenti dove? No, in questo momento World Coffee è presente a Bergamo e a Tolmezzo in provincia di Udine. Apriremo a breve a Piacenza e a Milano. Ecco. E altre aperture sono previste insomma nei prossimi tempi. Quindi diciamo che è una specie di è un franchising a tutti gli effetti, un'idea che vi è venuta e che è già presente in queste due città, Bergamo e Tolmezzo, e poi piano piano insomma voi pensate se prenderà piede, se funzionerà, di esportarla. Come vi è venuta in mente questa idea? Sì, no, innanzitutto World Coffee non è un franchising, diciamo ha l'ambizione, World Coffee è una catena di bar che ha l'ambizione di essere presente sul territorio nazionale a breve, e che è collegato organicamente a una rete di imprese cooperative che si occupano di formazione e di agenzie per il lavoro. Perché World Coffee fa un mestiere un po' particolare, direi del tutto originale. Possiamo anche dire il nome di questa rete di cooperative, così? Allora, la rete a cui aderiscono imprese cooperative, ad esempio il CESIP che si occupa di formazione, sì, e World Coffee, che è un'agenzia di intermediazione presente su tutto il territorio nazionale. Benissimo. Cosa fa World Coffee? Qual è l'idea che sta, diciamo, alla base di World Coffee? È quella di produrre reddito attraverso l'attività di pubblico esercizio, quindi vendendo caffè e aperitivi, e però di reinvestire totalmente questo reddito così realizzato nella strutturazione e nell'erogazione di servizi per il lavoro del tutto gratuiti. Questo insomma è la nostra. Però il tutto appunto all'interno di un caffè a tutti gli effetti. Sì, noi siamo una catena di bar tradizionale, bar vero e proprio, dove chiunque può entrare, prendersi un caffè, un aperitivo, sfogliare i giornali e passare qualche momento in compagnia, e dove però all'attività diciamo tradizionale di bar si affianca quella di erogazione di servizi gratuiti per il lavoro. Per esempio? Incontri, per esempio, esperti? Certo, cioè, allora il punto è questo, in Italia le recenti stime dell'Istat ci restituiscono una situazione drammatica, sono milioni le persone che non sono inserite né in percorsi di studio, ma neanche in percorsi di reinserimento per il lavoro. World Coffee nasce proprio col tentativo di recuperare, di andare a agganciare queste persone che magari si sono un po' perse in percorsi di ricerca del lavoro un po' tortuosi, un po' grigi, un po' istituzionalizzati, e quindi di aprire una porta sulla ricerca del lavoro più attraente, come quella di un bar. Niente World Coffee, non solo quindi si può prendere operativo con gli amici, ma trova una serie di servizi del tutto gratuite. Allora, innanzitutto abbiamo delle bacheche di annunci, di offerte, di candidature per il lavoro. Abbiamo la strutturazione quasi quotidiana, insomma, di momenti di gruppo o di momenti individuali, sì, durante i quali una persona che è alla ricerca del lavoro può trovare una persona esperta in politiche del lavoro, in servizi per il lavoro, a sua disposizione. Nei momenti di gruppo si affrontano temi quali, ad esempio, faccio qualche esempio, la redazione di un curriculum vitae efficace, oppure la simulazione di colloqui di selezione in aziende, che sono sempre momenti critici perché cerca il lavoro. Vabbè, quelle cose poi che conosciamo, ma che servono per trovare lavoro, ma che, come diceva lei, insomma, voi cercate di proporre, diciamo, a quella fetta di mercato che sia un po' forse rassegnata, arresa, che non va più nelle agenzie di lavoro, e quindi voi fate una proposta leggermente diversa. Adesso facciamo una breve pausa per il traffico, che dobbiamo farla, e poi torniamo, e magari ci dice anche i vostri esperti cosa consigliano in questo momento, quali sono i settori che tirano. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in diretta, di nuovo in compagnia di Luigi Ronda, responsabile nazionale World Coffee, una iniziativa che sta nascendo in Italia. Ci sono dei caffè dove si danno anche suggerimenti e si aiuta a trovare lavoro. Attualmente sono presenti, come sentivamo, a Bergamo e Tolmezzo, ma in prospettiva ci sono anche Piacenza e Milano. A proposito, se uno che ci sta ascoltando, uno che c'ha un bar magari, no, fosse interessato a entrare in questa rete, è possibile? Cioè, si può fare avanti uno che c'ha un bar, che ne so, a Siena, a Palermo, e dice voglio entrare nella rete? Allora, come ti dicevo prima, in realtà noi non siamo una rete di franchising, noi nasciamo e cerchiamo di svilupparci dove già siamo ramificati con la nostra rete appunto di centri di formazione o di agenzie per il lavoro, perché solo così riusciamo a... Quindi ci vuole in ogni città, clienti, ci deve essere alle spalle anche il centro per il lavoro, sì. Naturalmente. Solo quindi così riusciamo a fare. Dove è presente... Mi piace ricordare che WorkOff appunto è un luogo del tutto informale, amichevole, come è esattamente un bar, dove però chi sta cercando lavoro ha l'occasione di incontrare, faccio un esempio, il responsabile delle risorse umane di un'azienda, diciamo, particolarmente innovativa del territorio, che si mette lì davanti a uno spritz, davanti a un bicchiere di vino, davanti a una Coca-Cola, e chiacchiera molto tranquillamente con i ragazzi che magari stanno cercando lavoro e sono interessati a candidarsi insomma, o a capire come le aziende in questo momento stanno facendo selezione. Questa è una delle cose che organizziamo. Ma quindi la domanda è: se io ho un bar e sono interessato a entrare in contatto con voi, posso sperare di farla questa cosa o no? Non lo so. Potrebbe essere un'idea, no? Possiamo metterci in contatto e poi vediamo. Va bene, chissà, dipende se c'è dietro il centro per il lavoro oppure no. Insomma, esatto. Un'iniziativa la gestite voi come volete, la mia era solo un'idea, insomma, un suggerimento, estendere il più possibile una cosa del genere. Quali sono i settori che possono tirare di più in questo momento se, diciamo, i vostri esperti hanno in mano dati di questo tipo? Possiamo dare un suggerimento così per salutarci? Allora, sì, in realtà non c'è una risposta univoca in questi momenti di crisi disperata, di difficoltà clamorosa. Cosa dicono i nostri esperti? Innanzitutto ricordano l'importanza essenziale della formazione e soprattutto della strutturazione per ognuno di noi, per ognuno delle persone che cerca lavoro, di un percorso di ricerca di lavoro ben costruito. Non ci si improvvisa candidati, ma ci si costruisce come candidati, quindi per questo noi cerchiamo di offrire questi servizi che permettono a persone che stanno cercando il lavoro di essere un po' più attrezzati nella loro ricerca del lavoro. Va bene, insomma, grazie per essere stati con noi, voi di WorkOff, una bella iniziativa. Vedremo più avanti se riuscirete a colonizzare anche altre città, e sarebbe bello. Intanto in bocca al lupo per quello che fate. Grazie mille. Mi creda, io sono in questo commercio da sempre. Pensi che aiutavo mia madre dopo la scuola quando avevo solo 6 anni e la imitavo. Lei non si limitava solo a vendere libri. No, lei aiutava i bambini a diventare quello che poi sarebbero diventati. Perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, ma hanno tanti segreti come i poeti. Nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia. Oh mamma mia, bada. Perché se leggi un libro da piccolo diventa parte di te, come non succederà mai con altre letture. E io sono partita in quarta, Eccoci qua con questa introduzione. Parliamo di bambini, ma anche di libri. Di libri per bambini. Una iniziativa che da qualche anno sta andando avanti in Italia. Da una libreria di Roma sono nate tante altre librerie per bambini in Italia, a dimostrazione che in una fase difficile per le librerie come è questa si può fare economia anche in questo settore. Salutiamo, abbiamo convocata qua con noi Antonella De Simone. Buongiorno Antonella. Buongiorno a tutti. Titolare di 100 Storie, la libreria di Roma da cui è partito tutto, e diciamo capofila, possiamo dire così, di una rete di librerie che si chiama Cleio. Sì, Cleio è il circuito di librerie indipendenti per bambini che sono nate proprio sulla scia dell'idea di 100 Storie, che ormai è abbastanza vecchia come libreria, ha 6 anni di vita. Beh, insomma, vecchia, è radicata, diciamo così. Come anziana, e quindi fa da capofila a tutte queste librerie diffuse sul territorio nazionale che sono esclusivamente specializzate per bambini. Prima di parlare del circuito, che è l'idea, diciamo, nuova, innovativa, parliamo anche di 100 Storie per capire come nasce questa libreria. Una libreria che nasce da alcune amiche mamme, così? Sì, esatto. L'idea era un po' di togliersi da un mondo del lavoro molto precario, instabile, in cui si lavoravano 10 ore al giorno e non se ne veniva mai a capo, e fare una scelta di vita per noi e per le nostre famiglie, per i nostri figli, quindi diciamo fare un po' di imprenditore di se stessi, facendo una cosa bella, un lavoro bello, e quindi ci siamo messe in cooperativa, abbiamo partecipato ad un bando per la promozione delle periferie di Roma, questo Santo Storie nasce a Centocelle, e siamo partite 6 anni fa veramente proprio solo con questi fondi, non fondi propri ma da zero, e poi siamo cresciute, tante mamme ci scrivevano vorrei fare la stessa cosa, vorrei avere tempo per mettere mio figlio a fare un lavoro che mi piace. Prima di arrivare però, scusami Antonella, prima di arrivare a come poi sono nate anche le altre librerie, è giusto ricordare un po' la particolarità che poi vi ha spinto, diciamo, ad avere un certo successo, che vi ha sostenuto, il fatto che oltre a vendere libri fate tutto quello che può essere interessante per una mamma con dei bambini, per una famiglia, cioè una serie di attività collaterali che quindi vi differenziano dalle, in qualche modo dalle altre librerie classiche che, come stavo dicendo, hanno sicuramente in questi anni un saldo forse più negativo che positivo di aperture, questo non ho i dati ma credo si possa dire. Sicuramente è vero, poi specialmente schiacciate un po' dalle grandi catene rimane difficile mantenere una libreria, per una libreria in generale. Chiaramente la nostra chiave è di essere una libreria specializzata, quindi esclusivamente per bambini, di fare una selezione dell'editoria, quindi dare voce a una editoria veramente di qualità che c'è in Italia per bambini, che magari non si conosce molto bene, un po' schiacciata, e poi di fare, come diceva giustamente lei, servizi, quindi dalle più banali feste di compleanno, però pensate sempre all'interno di una libreria, quindi con una lettura animata, un teatro dei burattini, fino a laboratori, corsi nelle scuole, corsi per insegnanti e genitori sulla letteratura, quindi il libro diventa uno strumento per fare tutto il resto, quindi c'è una vendita diretta del libro, ma poi anche una vendita indiretta in cui tutti i servizi ruotano attorno al libro per bambini, ma che comunque rappresentano un introito importante per una libreria come la nostra. Quindi, insomma, voi siete riusciti a superare le difficoltà di aprire un'attività nuova, una libreria, andando appunto in controcorrente, però diciamo con una sintesi, con un francesismo, vi siete fatte un mazzo così per creare tutta una serie di cose collaterali, quindi non basta il concetto della libreria, perché evidentemente quello non sarebbe stato in sé per sé vincente. Un po' romantico del libraio che sorseggia te, accarezza il gatto di libreria. Tra l'altro esatto, tra l'altro il pezzo di film che abbiamo fatto sentire, chi l'avrà riconosciuto, C'è posta per te, parla proprio di una libreria che chiude, quindi diciamo con qualche elemento di malinconia. 800 24, esatto, non è che proprio mi ha fatto molto piacere, no, però abbiamo preso la parte in cui non si parla della chiusura. 800 24 00 24, vorrei al numero verde che foste proprio voi, amici che avete una libreria o che l'avevate o che vorreste o che sognate di averla, a chiamare un pubblico ristretto, però è possibile, no? Intervenire per raccontarci le vostre esperienze. Tra poco al numero verde sarà possibile, intanto cominciate a prenotare l'intervento. 800 24 00 24. Antonella De Simone da Roma, 100 storie, ci sta raccontando la sua storia, che poi a un certo punto, abbiamo interrotta, stava facendo un passo ulteriore in avanti, cioè la nascita di altre librerie, avete fatto dei corsi e poi è successo qualcosa. Richiesta delle mamme che ci dicevano vorrei fare anche una cosa del genere, quindi dell'informazione è nato questo corso, ormai da 3 anni e mezzo lo teniamo, tutti i mesi 20 persone da tutta Italia, quasi sempre donne, vengono ad ascoltare come si fa ad aprire una libreria per bambini, quindi tutti gli aspetti economici, burocratici, se veramente ne vale la pena. E poi da questo corso sono nate 30 librerie che hanno questa sintesi tra servizi, libri e altro, insomma. Sì, abbiamo qualche difficoltà forse anche sulla linea, Antonella, ci senti? Sì. Noi, ecco, adesso ci sentiamo. Sì, io mi sento benissimo, ho un po' di eco, ma mi sento Quante sono le librerie attualmente nel circuito? Attualmente sono 30, moltissime sulla Lazio, Toscana, Emilia Romagna, molti di più a nord che a sud, però anche il sud adesso sta recuperando un pochino, abbiamo qualche apertura nuova per settembre anche a Palermo, quindi ne siamo molto contente. Quindi insomma, in sostanza, quante persone possiamo dire che con la vostra iniziativa avete contribuito a dare un'opportunità di lavoro? Insomma, Deve considerare almeno 60-70 persone, perché di solito aprono in coppia queste mamme, esattamente come abbiamo fatto noi, e quindi deve calcolare un numero, insomma, orientativamente questo numero. E poi chiaramente c'è tutto l'indotto indiretto, quindi collaboratori e altre persone che lavorano vicino alla libreria, intorno alla libreria. E fare parte della rete Cleio che cosa vuol dire? Cioè io che cosa, come diciamo, come libreria, come aspirante libraio, cosa ci guadagno, cosa mi offrite come servizi? Allora, noi sostanzialmente cerchiamo di farla sopravvivere questa libreria. La prima fase, che è la fase più difficile per noi, per tutti quelli che avviano un'attività, è una fase molto complessa. Molto complessa, in cui ci sono molti fornitori che magari non ti fanno degli sconti, delle difficoltà economiche soprattutto si affrontano, e l'idea è quella di gestire questa fase di avvio dando delle scontistiche, delle facilitazioni dal punto di vista dei fornitori, e poi seguendo anche un percorso di rete, quindi tutte le librerie scambiano informazioni, hanno possibilità di fare acquisti come un GAF, un gruppo di acquisto solidale, possono avere, organizziamo eventi insieme, abbiamo un ufficio stampa, quindi di sostenerla questa libreria, perché stare da soli sicuramente non si cresce. E vabbè, insomma, complimenti per questa iniziativa, Cleio, il circuito Grazie. Delle librerie indipendenti nate da mamme e dai corsi organizzati a Roma dalla libreria 100 Storie. Antonella De Simone è stata con noi, ci ha raccontato questa bella storia, complimenti ancora, in bocca al lupo per tutto. Noi rinnoviamo l'appello a intervenire in diretta 800 24 00 24, oppure su Facebook si può fare Radio 24, su Twitter si può fare 24, per raccontarci le vostre belle storie e soprattutto per raccontarci se credete che si possa vivere di cultura e di libri. Perché se leggi un libro da piccolo diventa parte di te, come non succederà mai con altre letture. E io sono partita in quarta, Si può fare. Cronache da un paese migliore. Mi creda, io sono in questo commercio da sempre. Pensi che aiutavo mia madre dopo la scuola quando avevo solo 6 anni e la imitavo. Lei non si limitava solo a vendere libri. No, lei aiutava i bambini a diventare quello che poi sarebbero diventati. E pensate, è straordinario che domani a 140 caratteri da Marta Cagnola c'è proprio ospite Meg Ryan, no? Che è la protagonista del film C'è posta per te, che abbiamo preso a spunto oggi per parlare di cosa? Di libri, di cultura. 800 24 00 24, se possiamo vivere di cultura e di libri. L'iniziativa di Antonella De Simone della libreria 100 Storie del circuito Cleio, 30 librerie in Italia nate negli ultimi 2 anni, 70 persone che ci lavorano, beh, insomma, dimostra che lavorandoci bene, di fino, si può fare. E allora sentiamo al nostro numero verde 824 00 24 chi ci chiama. Luca da Roma, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno. Posso chiedere di sentire la musica? Sento la musica fortissimo, sento. Ma noi la musica non ce l'abbiamo, adesso non c'è, ecco, proprio più, eccola. Sì. Ecco, perfetto, adesso benissimo, grazie. Sì. Ecco, Parisi, io ho raccolto il suo invito a partecipare alla trasmissione in quanto operatore del mondo musicale. Io sono stato professore d'orchestra per 17 anni in varie orchestre italiane e anche europee, e diciamo che ho sentito il suo invito a parlare un po' della questione in riferimento, sì, al fatto che il maggio musicale purtroppo sta passando questo periodo. Ma scusi, perché dice che è stato per 17 anni? Parla al passato? Sì, perché adesso la mia attività, io sono solista, quindi non sono più all'interno di compagini orchestrali, sì, ma svolgo un'attività come solista, collaborando quindi con gli enti, ma in altra veste. Ok, ma per scelta oppure purtroppo per necessità? No, per tutt'altro, per scelta. Ah. È stato un cambio professionale del quale sono stato molto felice, che ho coltivato negli anni e finalmente, bene, diciamo finalmente, tra virgolette, il lavoro mi piaceva molto come professore d'orchestra. Quindi diciamo lei è un libero professionista della musica. Esattamente, però importante sottolineare questi 17 anni all'interno degli enti istituzionali lirico-sinfonici, che mi ha dato una visione anche, ecco, delle problematiche, della realtà della quale ci riferiamo parlando del le fondazioni, no? Questi mondi così, forse anche un po' spreconi in passato? Sì, guardi, io possiamo toccare dei luoghi comuni che conosciamo tutti, gli enti con innumerevoli assunzioni di persone che, sì, lavorano e non si sa bene quali sono le loro funzioni, eccetera eccetera, diciamo che sono dei luoghi comuni che purtroppo sono anche veri, purtroppo. Io volevo, diciamo, è difficile in pochi secondi poter intervenire su delle problematiche così grandi, così ampie, quale appunto il problema della cultura in generale in Italia. Per quel che mi riguarda, avendo la possibilità di lavorare all'estero, posso forse portare una notizia, diciamo, che può essere forse di interesse. Ecco, beh, vada, sì, ci dia una notizia all'estero, ecco, così apriamo, diciamo, questo canale qua, vada. Affrontare un argomento così, sì, sarebbe impossibile. vengo da Parigi da poco, c'era la giornata della festa della musica, non so se era il 21 o il 22 di giugno, mi ricordo, ma pochi dovrebbe giorni. Essere il 21 giugno, se ben ricordo. Perfetto, esattamente. Allora, a parte la vita musicale nel quartiere del Marais, di tutta la zona centrale di Parigi, bellissima. Vabbè, non ci faccia venire troppa invidia, però vada con la notizia, no, perché sennò Parigi è talmente bella che sì. Vado subito al dunque. Louvre, concerto dell'orchestra Île de France col direttore Pavo Jarvi, sinfonia numero 1 di Mahler, entrata libera all'interno del Louvre sotto la grande piramide di vetro, concerto aperto e libero a tutti a esaurimento posti. Perché cioè lei dice che questo è il modo per attirare gente intanto all'idea del concerto, poi dopo si vedrà come sfruttarla anche economicamente, questo credo che voglia dire, no? Non solamente, c'è il congiungimento, la riunione dei luoghi, c'è il Louvre come simbolo di cultura che diventa quindi anche sede per poi offrire qualche cosa che è la musica, quindi è una commissione di situazioni, delle arti che si uniscono, c'è tutto un discorso che poi... Beh, insomma, caro Luca, che dire, lei con questa telefonata è come stata una sinfonia di violini per noi, perché è entrato proprio in sintonia con quello che vogliamo raccontare anche noi, e tra l'altro la Francia è indubbiamente uno degli esempi più eccellenti, forse il più eccellente che c'è al mondo, vogliamo dire così, ce l'abbiamo qua vicini, noi non è che saremmo molto da meno, anzi di cose da offrire ne abbiamo, il problema è che spesso non siamo in grado di strutturarle nello stesso modo, però insomma sono qua vicini, noi abbiamo lo stesso bacino culturale, per cui non ci vorrebbe molto a copiare. Al contrario, noi avremo molte più possibilità di offrire tanti posti, luoghi che hanno un simbolismo. Luca, lei che strumento suona? Ci salutiamoci così? Io sono diplomato in viola, sto svolgendo un'attività solista con armonica a bocca. Sono tra i pochissimi al mondo a fare musica classica e jazz con questo strumento. Ah, bellissimo, bellissimo. Il prossimo concerto dove lo fa? Allora, il prossimo concerto... Così facciamo anche pubblicità. ...di Bolzano. Sì? Sono 7 concerti tra l'Austria e tutto il Bolzano e dintorni anche Trento. Dal 15 al 27 una serie di concerti con l'Orchestra Sinfonica di Bolzano, diretto al maestro Gisardino, un programma dedicato alla musica brasiliana, tra cui il concerto di Villa-Lobos per armonica. Bravo, in bocca al lupo, grazie Luca per essere stato con noi. Arrivederci, grazie. 800 24 00 24, facciamo anche Anna Maria, già che ce l'abbiamo da Firenze. Anna Maria, la città grazie, del maggio. Grazie signore, senza resto stupita e sconcertata dal fatto come si lasci languire il maggio musicale. Sì. Un Pompei, l'Aquila, che sono eventi e sono testimonianze incredibili. Tanto diciamo che ieri Pompei c'è stata quella scena della chiusura per le assemblee sindacali. Sì, quando poi si danno, il ministro dei beni culturali del governo Monti ha dato alla signora Melandri, che è direttrice del Museo di Arte Contemporanea, ben 2 milioni di euro, e non so quale titolo la signora Melandri conduca questo museo, quando io l'ho sentita, ho sentito che non sa nemmeno coniugare il congiuntivo, e alla televisione... La Melandri non sa coniugare il congiuntivo? Assolutamente, guardi, alla televisione... Avrà sbagliato una volta, adesso... Ma no, poi... no, quando ha inaugurato... nel restauro di Assisi ho sentito dire io credo che è. Ecco, io dico, ma queste sono, diciamo, spiccioli. Dico che vengono lasciati in stato di abbandono un maggio musicale straordinario, si ignorano certe situazioni storiche. Però mi scusi, è chiaro il senso della sua denuncia, però... 2 milioni di euro il ministro dei beni culturali... No, di sprechi ce ne sono tantissimi, però qualche spreco, lei che è di Firenze, forse la realtà l'ha proprio vista anche da vicino, nel Maggio Fiorentino, nella Fondazione Maggio, adesso bisogna tagliare perché sennò non prego, ce la fanno. Prego. Qualcosa ci sarà stato, no? Non lo so. Beh, sì, insomma, c'è può una darsi. Vengono iperpagati alcune ipertrofia. Cose. Sì. Va bene, grazie Anna Maria da Firenze molte per grazie. La sua testimonianza. Molte 800 24 00 24, magari tra poco sentiamo qualche altra telefonata. Adesso vi portiamo in vacanza. E la bobina continua a girare, sì, ma la base va avanti anche da sola, e noi che abbiamo tutta la voce in gola, ma senza base non si può cantare, e con la base non si può suonare, non si può sbagliare, perché? Perché ci vuole orecchio. Ci vuole orecchio per capire da che parte va il mondo. Il mondo va sicuramente verso un'economia più sostenibile. Orecchio ce l'ha la nostra Camilla Masala, che ritroviamo con grande piacere. Camilla, buongiorno. Buongiorno, ciao, ciao a tutti. Senti, a proposito di violini, che sviolinata che ti faccio. Camilla Masala, che è la nostra redattrice, la nostra inviata nel mondo delle notizie sostenibili, fondatrice di Pupulito.com, la lavanderia per pannolini ecologici di stoffa a Novara, ma anche a Milano, ha ricevuto pochi giorni fa un premio dalle mani, credo, niente po' di meno che di Giorgio Napolitano, sì, esatto, guarda, sono ancora emozionata. Cosa pazzesca. Adesso. Cioè, noi abbiamo scommesso su di te quando ancora eri piccola e nera, poi un premio del CNR? Un premio in realtà di Cotec, la Fondazione per l'Innovazione Tecnologica Cotec, sì, in collaborazione con Confcommercio. Il premio mi è stato assegnato in sede del CNR. Ah, no, era solo la sede. Benissimo. Dalle mani di Napolitano, com'è stato incontrare Giorgio? Emozionante, sì, sì. Ormai il re Giorgio, no? Cioè, praticamente è il reggente di tutta la baracca. Se non ci fosse lui, sarebbe crollato tutto. Infatti, tra l'altro, l'unico che ha parlato in sede del CNR senza discorso scritto. Grandissimo, a te pensa, sì. Un uomo straordinario da questo punto, sì, di vista, una tempra che è solo da invidiare. Oh, vabbè, ricevuto il premio, menzioni, il premio per l'innovazione. Vabbè, insomma, chi vuol capire qualcosa di più si può andare a leggere sul sito di Pupulito. Certo, anche certo. Tu hai messo giustamente, orgogliosamente, questa cosa qua. Però ti abbiamo chiamata perché, siccome questa è anche l'ultima puntata, e allora vogliamo salutarci un po' e vogliamo darti un po' di consigli per andare in vacanza sempre nello spirito green, no, della sostenibilità. Cosa hai trovato per noi, Camilla? Oggi vi faccio sognare, perché vi faccio andare a dormire nelle casette sull'albero, che penso che sia il sogno di tutti, sia grandi e piccini. Sì, anche da grandi, da piccini sicuramente, mia figlia c'ha 2 anni e se la sente, addio, siamo rovinati, bisogna portarcela. Dove? Cos'è questa cosa qua? Allora, in provincia di Pordenone andiamo al Parco Nazionale delle Dolomiti Friulane, tra l'altro bene UNESCO, c'è il più grande villaggio sugli alberi al mondo. Cioè, presente le casette in legno, sì, sì, abbarbicate su ad alcuni metri dal suolo, dove è possibile passare la notte, ma soprattutto fare anche escursioni, passeggiate, attività con i bambini, di esplorazione del bosco. Quindi sicuramente consigliato a chi ha bimbi, ma anche a chi vuole passare una notte o comunque una settimana diversa dal solito. E a stretto contatto con la natura. Il villaggio con le casette sulle alberi più grande al mondo? Si chiama Tree Village. Io vi do anche il sito, sì? Trovate tutte le informazioni su www.montagna.es. Vabbè, insomma, questa è una cosa sicuramente originale e divertente, no? Dormire in una casetta di legno sull'albero. E che altro hai trovato? Allora, io vi segnalo un'iniziativa che probabilmente chi ha visitato la Fiera di Fare la Cosa Giusta ha già comunque avuto modo di conoscerla. La cooperativa Walden, che è una cooperativa che promuove e organizza viaggi esclusivamente a piedi, quindi proprio nella formula del turismo. Una cosa comoda, stabile, insomma, per chi si vuole rilassare e riposare. No, in realtà ci sono veramente viaggi per tutti i gusti, per chi è più pigro, per chi invece è molto più, diciamo, escursionista, un pochino più esperto. Loro organizzano viaggi sia in Italia ma anche all'estero, principalmente su quelli che sono i paesi affacciati sul Mediterraneo. Se andate sul sito, il sito è Walden con la W viaggiapiedi.it, trovate veramente pacchetti escursionistici per tutti i gusti. Quindi con naturalmente la possibilità di essere seguiti da comunque guide ambientali escursionistiche. Quindi comunque per chi c'ha il fisico, insomma, però Camilla, diciamolo subito, perché chi non è che si può recuperare in una settimana, no, di andare in vacanza. Ecco, dipende quante settimane di vacanze hai. Se magari cioè? 2 settimane di ferie, certo, magari perché una settimana la dedichi a questo e poi ti riposi. Ah no, pensavo 2 settimane perché ci vuole più tempo a fare qualunque cosa, andando a piedi naturalmente. Vabbè, adesso hai ancora qualcosa per noi? Sì. Volevo legare un secondo Allora aspetta, perché dobbiamo fare il traffico, perché qua loro vanno a piedi, ma qui c'è anche gente che va in macchina. Traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo insieme, si può fare Radio 24 su Facebook, si può fare 24 su Twitter, vi ricordo i nostri canali per commentare quello che state sentendo, anche in diretta siamo con Camilla Masala che ci sta parlando dei suoi consigli per le nostre vacanze green all'insegna della sostenibilità, cioè sprechiamo un po' meno se possibile. Avevi ancora una cosa per noi in un minuto che poi ci dobbiamo salutare, Camilla. Sì, se non avete voglia di viaggiare a piedi, viaggiate in macchina durante le vostre vacanze in aereo e volete compensare quelle che sono le emissioni di anidride carbonica che avete prodotto, oddio, ci sono numerosi calcolatori online che te lo permettono. Io vi segnalo a zeroco2.com, sì, che oltre a calcolarvi le emissioni che avete prodotto vi permette anche di compensarle, quindi economicamente. Cioè, mi vuoi far sentire in colpa, Camilla? Ma come, vado in vacanza? Ti do un'opportunità per recuperare. E va bene, anche questo abbiamo detto. Grazie Camilla, ci sentiamo presto, in qualche modo, insomma, sui canali social del programma, poi magari in diretta quest'estate se faremo altre cose, se no a settembre. La nostra Camilla, ciao, buone vacanze. Ciao, buone vacanze a tutti, ciao. Oh, tra l'altro, insomma, se proprio non ce la fate a risparmiare sull'aereo e sulla macchina, potete anche andare in vacanza normalmente e poi magari ricordarvi di non sporcare troppo sulle spiagge, basta anche questo. You're so sugar sweet, you may as well have had a kick me fastened on your sleeve. You know what you are, you're gonna be a star. Eccoci qua, le star al servizio della beneficenza. Nasce Charity Stars, il social network della beneficenza. Ne parliamo con Francesco Nazari Fusetti, che è cofondatore di questa iniziativa. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, insomma, un'idea che avete mutuato in qualche modo dall'estero, cioè mettere al servizio proprio di iniziative di beneficenza, se ci dirà quali, i VIP, le star, insomma i personaggi famosi che attirano sempre grande interesse da parte della gente. Come funziona questo progetto? Esattamente, e l'idea è nata proprio perché in un momento adesso di forte crisi per il no profit, le piccole ONLUS fanno sempre più fatica a raccogliere donazioni. Abbiamo, come dire, creato questo sito che permette ai VIP di donare o degli oggetti o una parte del loro tempo per delle esperienze che dopo vi farò degli esempi, e in questo modo i soldi raccolti dalle aste poi vanno a finanziare le ONLUS che i VIP hanno deciso di sostenere. Faccio un esempio cretino, io sono che ne so, Mario Rossi, noto per qualche cosa, offro di firmare le copie del mio libro a qualcuno in cambio, lo metto all'asta, i soldi vanno devoluti a... Facciamo qualche esempio un po' meglio di quello che ho fatto io. Esatto, per esempio Chiellini ci ha già donato molte maglie e delle scarpe, e i ricavati vanno a ONLUS di Torino, Total Sport, che si occupa di organizzare, diciamo, corsi di calcio per bambini disabili. Piuttosto che, per fare un esempio, Arisa, la cantante, ha messo all'asta un'ora di lezione di canto e una sua fan ha comprato quest'asta per 500 euro e accidenti, i proventi andranno a finanziare Medici Senza Frontiere. Mm-hmm. Piuttosto che altri personaggi come Francesco Facchinetti, Paolo Ruffini, Cristina Parodi, Giorgio Gori. Insomma, un modo anche per rendere un po' accessibili queste star che tutti vorrebbero, molti vorrebbero conoscere, avvicinarsi, eccetera. Questo è anche un po' un canale, no, da questo. Però pensa che tristezza se io metto all'asta una cosa e non la vuole nessuno, perché l'asta poi è trasparente, no? Che è successo? No, non è ancora successo, per fortuna, siamo online solamente da 3 settimane, abbiamo raccolto 7.000 euro in beneficenza, però speriamo che poi in futuro diciamo, ci siano sempre più VIP e più partecipazione sia da parte degli utenti che da parte delle star. E poi diventa un modo anche per misurare la vippitudine, come si dice, il grado di star che ci sono, perché chiaramente più l'asta va a ruba. E, insomma, com'è stato, cioè, mettere insieme tutto questo mondo così? Non è stato facile, ci sono dei benchmark americani, sì, siti americani che fanno già questa cosa qua, che raccolgono decine di milioni di dollari in beneficenza in questo modo. Si parla da, non so, la cena, il pranzo con George Clooney venduto per 40.000 dollari, o una partita di tennis con Rafa Nadal più di 150.000 dollari. Partita di tennis con Nadal, in effetti, a parte che per farsi massacrare, poi, cioè, uno paga per perdere una lezione di tennis, una lezione, allora sì, perché uno impara qualcosa. E vabbè, insomma, mi sembra che state andando comunque abbastanza bene. Ricordiamo anche il sito? Sì, charitystars.com, quindi le stelle della beneficenza. E adesso si possono acquistare, per esempio, un backstage con i Pooh, che sono in tour, sì, con i loro concerti, e l'11 luglio a Treviso, per i fan dei Pooh, ci sarà la possibilità di assistere al concerto e di conoscerli nel backstage prima del concerto, ecco. Va bene, insomma, in bocca al lupo per tutto, è un modo anche per fare un'idea regalo. Se io ho un amico che ci tiene particolarmente a un VIP, posso fargli questo regalo qua. Grazie a voi di Charity Stars. Noi ci fermiamo qua anche per oggi, è tutto per questa puntata, è tutto anche per questa stagione. Io ringrazio Benedetta Acri, redazione oggi, Franco Piantanida, Andrea Piana che ha scritto con me il programma. Io sono Alessio Maurizi, mi trovate su Twitter, @AleMaurizi. Grazie anche a Peter Bescapè in regia. Ci sentiamo con il meglio di tutti i sabati a mezzogiorno con Si può fare. Perché se leggi un libro da piccolo diventa parte di te, come non succederà mai con altre letture. E io sono partita in quarta, Si può fare. Cronache da un paese migliore.